ci fu anche il momento in cui, a misura della qualità della vita associata, si eresse la puntualità dei treni. Se il treno arriva in orario, diceva il Duce, le cose vanno bene. Più o meno mi ritrovo alle prese con lo stesso stile di ragionamento. L'altra mattina, allorché, trovandomi in una città dove tutto sembra perfetto, dove tutto fila che è una meraviglia, dove tutti si dicono cittadini felici e dove tutti si sentono rispettati, mi dirigo di buonissima ora alla stazione e con dannata soddisfazione e soddisfatta dannazione leggo sul tabellone che il treno che dovrebbe riportarmi a casa è in ritardo, in grave ritardo, mezz'ora, per il momento mezz'ora. Due ricercatrici in psicolinguistica, Annette e Kira Karmiloff, che sono madre e figlia, in un libro che si intitola Sentieri del linguaggio, dedicato allo sviluppo del linguaggio dalla vita prenatale all'adolescenza, raccontano di alcuni esperimenti che hanno aperto nuovi orizzonti alle nostre conoscenze in materia di apprendimento. Controllando i movimenti del feto ed il variare delle sue pulsazioni cardiache, è stato possibile appurare che già in quelle condizioni, in quell'ambiente, negli ultimi 3 mesi di gestazione siamo sensibili alla lingua materna e alla ritmica specifica che la caratterizza. Appena nati poi, ecco, gli stessi ritmi di suzione, no, con cui succhiamo il latte, variano in rapporto al riconoscimento della voce della madre e dalle sue intonazioni. A bagno nel liquido amniotico, insomma, non siamo immersi nel silenzio, ma sentiamo e gradualmente distinguiamo. Soprattutto siamo in grado di constatare regolarità che, per quanto possano confortarci, cercheremo di mantenere a lungo, possibilmente vita natural durante. E come il treno è ripartito da Rovereto, mi sono accorto che attorno a me il rumore di fondo, la situazione era cambiata, che un vago senso di ansietà stava per dominarmi. Immerso com'ero nella lettura del libro delle Karmiloff, mentre mi interrogavo sui vari marchingegni utilizzati per monitorare la percezione acustica prenatale, mi rendevo conto che la mia percezione acustica tardo postnatale non registrava più il caro vecchio codice della lingua italiana, ma che nell'intero vagone studenti e lavoratori che tornavano a casa, viaggiatori, perfino il controllore, tutti parlavano tedesco. Tornavo a Bolzano dopo 57-58 anni, mi sembra. L'inquietudine del pesce fuor d'acqua mi prendeva. Poche cose come l'estraneità della lingua riescono a suscitare insicurezza, malessere, malumore, senso di inferiorità, sensazioni di pericolo e poca capacità di affrontarlo. La condivisione di un codice è la prima scommessa implicita in ogni tentativo di comunicazione. Nonostante tutta la sua arbitrarietà, la parola si estende alle cose, le sostituisce, si fa strumento, si fa principio di cooperazione. Thank you. ho trovato solo entusiasti. Il loro elogio di Bolzano, Bozen, è stato unanime. Chi ci è nato e cresciuto, chi ci sta da qualche tempo, chi ci è arrivato il mese scorso. Una città magnifica, qualità della vita altissima, ordine, pulizia, viabilità invidiabile, servizi, tutto vi funziona alla perfezione. L'aria ovviamente, la montagna, le tradizioni. Devo tenere un seminario in una scuola, mi ci portano in auto lungo la strada. Noto che le insegne dei negozi sono scritte in tedesco. All'arrivo il parcheggio è pronto, bello, immediato lì. Né sui muri esterni, né sui muri interni, nemmeno nei cessi della scuola, prima di parlare sempre meglio far la pipì, né nei cessi della scuola ci sono scritte. L'aula dove devo parlare è linda, immacolata, architettonicamente funzionale, tecnologicamente supermunita. Molti di quelli che sono venuti a sentirmi sono biondissimi e stanno sulle loro, scrupolosamente attenti ma fin troppo composti. Io parlo veloce, è un difetto, parlo veloce in italiano, mi chiedo se mi capiranno. Parlo per 4 ore. 4 ore, rispondendo anche a qualche domanda articolata con molta precisione. L'impressione comunque è che se parlassi per 12 ore consecutive lì, nessuno alzerebbe nemmeno il sopracciglio. Più o meno a metà, il presidente del comitato organizzatore aveva decretato 2 minuti di pausa e 2 minuti, 2 minuti veri, 2 giri della lancetta dei minuti sono stati. Ma i treni sono in ritardo. Ma i treni sono in ritardo esattamente come nel resto del paese. E questo fiume di studenti che sciama dalla stazione alle 7:15, ma quando si sono tirati giù dal letto questi poveretti, questo fiume di studenti non mi appare più come un segno della specificità altoatesina di una diversità meritoria, lo vedo piuttosto come l'ennesimo inganno, come un fiume di illusi dal mito dell'organismo sociale perfetto. Il seminario l'ho tenuto, ho dormito pochissimo per poter tornare alla svelta a casa mia, ma il treno è in ritardo. Sono lì che rimugino, un po' in trappola, un po' nero per aver rinunciato al sonno, un po' irridente nei confronti di un idolo rapidamente infranto, che è una sorta di frullo di ali metalliche, mi fa rialzare lo sguardo al tabellone. I 30 minuti di ritardo accanto al mio treno sono spariti. Temo il peggio, anzi ne sono sicuro. Come al solito l'ottimistica mezz'ora viene sostituita dalla tragica ora, in attesa dell'ora e mezza. Invece non accade niente. Il ritardo è sparito. Mi dico che non è possibile, che non mi è mai capitato che un treno recuperasse tanto ritardo che è inutile che ci speri, tra l'altro che la coincidenza l'ho persa, chi lo sa quando arrivo a Milano, Bolzano sarà Bolzano quanto vuole, possono parlarci tedesco, possono spazzolarla dalla mattina alla sera e tirarla lucido, ma dell'Italia è parte inesorabilmente. Scuoto mestamente il capo. Giusto un attimo prima che l'altoparlante dia un annuncio. Il mio treno è pronto al binario, pronto per partire e per fare in modo che io non perda la coincidenza per Milano. Un treno straordinario è stato allestito per sopperire a quello normale in grave ritardo. Sempre meno fiducioso nelle mie convinzioni, con rapidità teutonica mi avvio al sottopassaggio.